Lo stai dicendo che Daniele Audet nella sua formazione è stato esposto a un certo momento a 7 giorni a stare con i lebbrosi e questo lo porta a un chunk down più basso possibile. Questo proprio per evitare l'orgoglio dell'astrazione e quindi la superbia dell'uomo che si sente arrivare verso livelli più alti degli altri. In realtà noi dobbiamo saturare tutti i livelli, perché se siamo ciechi a un livello, questa cecità a un livello si riproduce su tutte le altre. Una spiritualità che è cieca a livello astratto produce effetti nefasti, del tipo l'arrogo di Giordano Bruno, capite? Perché vedi solo una parte e non vedi la sofferenza che c'è lì davanti a te in carne ed ossa in quel momento. Va bene, adesso continuerei entrando poi nelle specificità. Allora, dal punto di vista Aleph, che ho già dichiarato come un punto di vista olistico, quindi semplicemente noi trattiamo queste distinzioni, qualità, per poterne parlare, poi l'ideale è una sintesi che le trascenda tutte, come ovvio. La prima, che è la più importante dal nostro punto di vista, ma è una scelta, se può fare altre, è il non giudizio. Infatti consideriamo che così, ma se per didattica la costituzione dell'anima, l'articolo 1 contenga questa dichiarazione: in questo paese non si può giudicare, è vietato dal giudizio. Ogni giudizio, ogni atto, pensiero, portamento che avviene a seguito a giudizio deve essere considerato incostituzionale e annullato, perché ogni giudizio produce male. E La seconda cosa importante è l'accurata comprensione ed empatia della persona che è davanti, ma sono qualità dell'essere ovviamente, che queste, l'ascolto profondo, genuino interesse, la stima, l'amore incondizionato, la valorizzazione. Cioè, non c'è molta differenza tra noi, quello che pensa Rogers, semplicemente noi lo mettiamo come non quelle qualità lì, ma l'insieme di tutte le qualità. Non dobbiamo essere ciechi a nessuna di queste qualità. Se ne enfatizziamo troppo una a scapito di qualcun'altra, lì c'è un buco. Ora questa diventa poi una pratica basata su una visione generale. La vera filosofia è uno stile di vita, come ci insegnano i primi filosofi occidentali, non è un'elaborazione intellettuale, è una pratica di vita. Questa pratica di vita è appunto la filosofia. Bene, in questa pratica di vita, l'altro, quel tema che deriva dal non giudizio è fondamentale, perché significa che trattare i sensi di colpa per quello che sono, cioè il colpa e i sensi di colpa sono radicali nevrotici, sono veramente funzioni dell'ego, non di un governo che è sintonizzato con l'anima. Quindi non si tratta mai di parlare di colpa che ti tira dietro tutto il campo semantico del giudizio, ma di ignoranza, cioè di mancanza di consapevolezza. Insomma. Questo ci consente di poter astrarre dall'essere umano la visione che l'essere umano è la bontà di fondo dell'essere umano. L'essere umano è un bene e come tale, se si comporta umanamente, è un bene per lui e per tutto il creato. Se si comporta in modo disumano, è un male. Ora, gli esseri umani nella cultura riduzionista, cieca, in cui ci troviamo noi, cieca rispetto alle qualità dell'essere, purtroppo diventa spesso disumano e produce effetti disumani. Questa è la conseguenza. Quindi adesso anche il paradigma quantistico, e qui la lezione del giudice è ineguagliabile, ci dice dobbiamo passare dal mondo della forza, che è la conseguenza della visione riduzionista e meccanicista, al mondo della risonanza. E anche lì capite che dal punto di vista della psiche cambia tutto, perché nel mondo della risonanza c'è una sola emozione fondamentale che è la gioia, accompagnata dalla compassione quando c'è qualcosa che quando vediamo il male, quando vediamo la sofferenza. Mentre nel mondo della forza, che è il mondo della psiche, che è il mondo della separatività, quindi del controllo, del potere, della manipolazione, del giudizio, dell'avversione e delle tre emozioni fondamentali, e qui non ci può essere la gioia dell'essere, quindi abbiamo una carenza, è l'esistenzialismo negativo, sono stato gettato nel mondo, una visione nichilista, in fondo io non sono nulla, mi devo creare una qualcosa a cui attaccarmi, da cui derivano poi tutte le paure di fondo degli esseri umani. Ancora la filosofia, una parte della filosofia è intrappolata qui, perché si è staccata dalla mistica, e la psicologia lo stesso, si vanno a braccetto. Quindi stiamo, come vedete, parlando di una visione filosofica che c'è sempre stata nell'umanità, ma è stata di pochi, degli esseri illuminati. E quindi abbiamo bisogno di un'educazione, di una rieducazione all'alfabetizzazione di che cos'è umanità. Quindi abbiamo bisogno di un'educazione permanente e di una diffusione di questi principi, che non sono principi di parte, in quanto non sono principi contrari al bene di nessuno, sono il bene di tutti, compresi di coloro che li osteggiano, cioè un bene per tutti. Da qui deriva che questo tipo di lavoro è incompatibile con una visione specialistica, sono abilità di base che sono disponibili a tutti, potenzialmente. Alcuni ne faranno una professione, nel senso che si faranno garanti di lavorare tanto su questi. Quindi questo sarà l'aspetto democratico, anti-elitario, non narcisistico, non nichilista, fondato sulla fede positiva e quindi sul fatto che queste cose vanno dette, ripetute più volte, vanno diffuse, vanno proprio veramente diffuse perché fanno il bene di tutti. Da qui deriva, ci sono dei principi di fondo, no? Degli atteggiamenti di fondo che ne derivano, che sono l'atteggiamento di umiltà, non siamo in possesso di nessuna verità nostra, queste sono verità universali, oggi si può ragionevolmente sostenerlo con dati di fatto alla mano, quindi da queste verità universali deriva la pari dignità umana, l'ottica del servizio, che gli esseri umani si pongono al servizio, rinunciano alla volontà di potenza, alla volontà appropriativa, che è alla base del male nel mondo. Quindi qui tutto l'insegnamento della grande mistica, il principio di coerenza e integrità, perché questo è realizzare se stessi, vuol dire diventare chi siamo, ma vuol dire allineare i vettori, non è ospitare più al nostro interno dei conflitti che ci fanno dissipare l'energia, diventare potenti. Quindi da ci deriva l'assoluta trasparenza, non abbiamo nulla da temere, non nascondiamo niente, alle teia togliamo l'alfa privativo e diventiamo teia, nascosto, cioè togliamo alle teia verità, al ciò che è nascosto togliamo il velo. E se tolgo il velo e mi rendo disponibile e responsabile per tutto quello che ho fatto, perché sono stato meccanico, l'ho fatto io, ma io posso dirlo, dichiararlo e non ho bisogno della privacy. Ecco. Questo mi porta a essere veramente genuino e autentico perché non ho più paura di nulla. Ecco. E allora questo ci richiama alla grande lezione di Spinoza e come lui da altri, che la vera umanità produce che cosa? Beatitudo e salus. Cioè beatitudine, la gioia dell'essere, e la salus, cioè la salute da una parte fisica, emotiva, mentale, spirituale, e la salvezza, cioè essere salvi, non avere più timori. Ecco. Bene, dal nostro punto di vista stiamo parlando di che cosa? Di quella che è la costituzione dell'animo umano. E quindi Platone qui ci aiuta dicendo l'animo umano, il divino, è bene e giustizia, e questo oggi possiamo dirlo anche insieme alle neuroscienze. Dopo Rogers il cammino va avanti, Rogers ha fatto il grande sfondamento e quindi si è concentrato sulle qualità dell'essere e quindi ha enfatizzato quelle. Adesso le tecniche possono ritornare, ma sono tecniche che devono in senso dharmico, essere radicate primariamente nel continuo lavoro sulle qualità dell'essere, giornaliero, quotidiano, non solo nel setting di aiuto, ma in qualunque setting della nostra vita, perché in ogni luogo noi siamo di aiuto. A noi stessi, alle nostre parti indifese, alle parti sempre siamo d'aiuto. E la grande distinzione che si fa nella psicologia umanistica è tra relazioni che fanno crescere e relazioni che bloccano. Quindi le relazioni a cui noi partecipiamo possono essere di due tipi, quelle egoiche che bloccano la crescita e quelle animiche. Allora, chiarire le idee serve nella vita a decidersi di praticare relazioni animiche in primo luogo con noi stessi e relazioni animiche con gli altri. Questa è beatitudo, salvezza. Ed è filosofia, psicologia, spiritualità, mistica, economia, tutti insieme. Dell'economia ne parliamo un altro giorno.